9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, ma dico io, ma noi ce la prendiamo con gli studenti, ma perché facciamo le pubblicità in cui Giulio Cesare viene presentato come imperatore? Quello non è mai stato imperatore, lo volevano incoronare re e per quello lo uccisero, per difendere la Repubblica. Detto questo, oggi una puntata che ha cambiato il tema perché vi era stato preannunciato, perché vi avevamo detto ieri che eravamo felici di ospitare il ministro Gelmini, perché ieri doveva essere approvato il provvedimento di riforma dell'università che tanto ha fatto discutere, e quindi era un faccia a faccia con il ministro l'annuncio, se non che poi il provvedimento ieri alla Camera per l'opposizione che ha fatto ostruzionismo non è stato approvato, passa oggi, e il ministro, per evitare nuove polemiche e dovendo stare in aula, mi ha detto: guarda, purtroppo oggi non posso essere con i tuoi ascoltatori. Benissimo, allora cambiamo argomento. Detto questo, io penso che oggi dedicheremo gran parte della trasmissione a voi, quindi iniziate a chiamare qualunque sia l'argomento per cui volete intervenire e protestare. Per una volta adottiamo il modulo Cruciani, per così dire, ci scambiamo i moduli, quindi voi iniziate a telefonare qualunque sia l'argomento, perché la seconda parte della trasmissione la facciamo con un bel po' di vostre telefonate rapide che ci dicono prima di Natale un po' che cosa vi è rimasto sul gozzo e lungo l'elenco altro che. Ma in questa prima parte invece ci occupiamo di uno dei tanti argomenti toccati ieri dal provvedimento mille proroghe, quello che il governo approva a fine anno, in cui si mettono a posto le cose si mettono a posto le cose, diciamo, si tenta di trovare una soluzione ai appunto mille problemi che ci sono. E uno di questi mille problemi che era rimasti aperti, al di là del fatto per esempio che ancora una volta non vengono accolte le nostre preghiere per rendere strutturali le esenzioni fiscali alla lista dei colpiti dall'alluvione del Veneto, perché si protrae semplicemente al 30 giugno la microlista delle cose sospese a dicembre, per il resto tutte le scadenze contributive e fiscali, cari amici colpiti dall'alluvione in Veneto, le dovrete pagare. Si sospende definitivamente l'esenzione per quello che riguarda invece l'Abruzzo colpito dal terremoto, fine di ogni proroga delle esenzioni. Ma tra le tantissime cose che le proroghe varate ieri dal governo vengono normate, c'è anche la soluzione del problema che era rimasto irrisolto. Ricordate che il ministro Tremonti aveva finanziato il 5 per 1000, la parte relativa alle scelte fiscali che vanno devolute alle associazioni del terzo settore solo per un trimestre, e era stato preso malissimo giustamente dall'associazione del no profit, che dice: qual è il messaggio? Che finché resta il ministro di trimestre in trimestre ci trova i soldi, altrimenti non siamo coperti col finanziamento, come facciamo a programmare le nostre attività? E stiamo parlando di un pezzo fondamentale che dal volontariato e dal privato si occupa degli anziani, dei disabili, dei malati, dei giovani, degli immigrati, di tutto ciò che integra ciò che lo Stato non è capace di fare, non è in grado di fare, non ha risorse per fare. Allora, il mille proroghe dà la copertura per altri 400 milioni di finanziamento al meccanismo del 5 per 1000, ma lo fa in una maniera coerente al fatto che non ci sono le risorse. Quindi di questi 400 milioni in realtà 100 sono già quelle riservate alla legge di stabilità al sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica. Dopodiché degli altri 200, 50 arrivano dal fondo dei contributi all'editoria, giornali di partito e cooperative, e per questo oggi ci sono duri attacchi dal Manifesto e dall'Unità. E poi altri 45 arrivano dal taglio dei finanziamenti disposti con la nuova finanziaria per il sostegno dell'emittenza locale. Poi 50 milioni vengono dal taglio del fondo per i piani di rientro comuni in dissesto finanziario, sempre uscito dalla legge di stabilità, quindi i comuni avevano sperato di recuperare 50 milioni in più e invece si rivedono sottratti. E poi il resto, altri 55 milioni, vengono da tagli agli incentivi per i titoli di proprietà industriali, ai brevetti, e una parte viene anche dalle risorse recuperate dall'antitrust, eccetera eccetera. Però insomma il più, oltre ai 100 milioni che erano già previsti per i malati di sclerosi laterale amiotrofica, viene appunto dal fondo contributi editoria e dal taglio alle televisioni locali, e quindi c'è su questo un po' di polemica. Ora lasciate che vi dica innanzitutto che un po' di polemica c'è sempre quando riguarda il 5 per 1000 e la visione della sussidiarietà. E per questo io voglio leggervi una cosa che è uscita 2 giorni fa su un sito che si chiama Libertiamo, libertiamo.it, che è un sito che vi consiglio per chi la pensa un po' come me, insomma, è fortemente a favore della sussidiarietà, del privato e del liberale, di seguire questo sito libertiamo.it. E c'è una giovane economista che si chiama Claudia Biancotti, è una economista di formazione Banca d'Italia e che ora è in forze alla BCE, che 2 giorni fa ha scritto un post breve, sintetico, ma molto chiaro sulla sussidiarietà e la visione di liberali e socialdemocratici in materia. E me ne leggo qualche frase, per così dire. E a proposito del fatto che solidarietà ed empatia siano considerate, per così dire, patrimonio solo di chi ha la visione di Stato e socialdemocrazia. Come se essere liberale, scrive Claudia Biancotti, significasse godere la vista di un senza tetto che muore di freddo in un parco. Il primo punto di confusione da risolvere riguarda la differenza di fondo tra pensiero liberale e pensiero socialdemocratico. Entrambi, scrive, hanno come obiettivo, nelle versioni contemporanee, la realizzazione di una società dove ciascuno goda del massimo benessere possibile, non solo economico, perché nessuno desidera la povertà, lo sfruttamento dei paesi di sviluppo, l'arricchimento di potenti lobby, eccetera, eccetera. La divergenza, però, tra i due pensieri sta nei soggetti individuati come protagonisti della buona società. Per un liberale al centro c'è l'individuo, in quanto tale e in quanto partecipe volontario dei corpi sociali intermedi, la famiglia, le associazioni, l'impresa, che devono avere la massima libertà possibile nel realizzare i propri obiettivi. Lo Stato è garante della legalità e della sicurezza, interviene nei casi in cui le strutture sociali spontanee, come il mercato, producono, proprio in virtù della loro natura decentrata, distorsioni non rimediabili, ma l'interventismo deve essere ridotto, perché lo Stato non ha il diritto di sostituirsi agli individui, alle loro libere aggregazioni, alla loro più immediata e diretta capacità di sapere valutare da vicino come risolvere al meglio i problemi e le situazioni. Si segue il principio, appunto, di sussidiarietà, per cui i corpi sociali di ordine superiore devono intervenire solo qualora quelli di ordine inferiore non riescano a svolgere un determinato compito. Per un socialdemocratico, invece, la direzione del discorso altrettanto legittimamente è invertita. Lo Stato, legittimato dal voto popolare, ha il diritto dovere di individuare obiettivi collettivi, ad esempio l'abbattimento delle disuguaglianze economiche o la massimizzazione del numero di occupati. Può pertanto imporre ai cittadini, famiglie e imprese regole e limitazioni della propria attività, non solo in conseguenza di problemi di coordinamento che impedirebbero loro di raggiungere gli obiettivi preposti, ma anche come affermazione di un valore di carattere collettivo ritenuto eticamente superiore a quelli scelti dagli individui. Tuttavia il liberalismo non ritiene irrilevante la dimensione etica, e poi prosegue dicendo appunto che non è un caso che nei paesi che adottano la visione liberale il terzo settore arriva fino a 6 volte le proporzioni che ha nel nostro paese, perché è lo Stato a riconoscere e a incentivare la sua risposta, mentre invece quelli come il nostro, che è di prevalente impianto socialdemocratico statalista, si stenta a trovare appunto le risorse finanziarie per il terzo settore, e quando le si trova a danno di altre che oggi, giustamente, per effetto di questo meccanismo di finanziamento, non so quanto siano felici e non so quanto considerino le proprie risorse come un'illecita sottrazione rispetto a un'esigenza forse non altrettanto importante. Ne parliamo rapidissimamente con, lo ringrazio per questo perché li abbiamo chiamati praticamente un quarto d'ora fa, Luigi Amicone, il direttore di Tempi. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno. Riccardo Gianola, vice direttore dell'Unità, buongiorno a Rinaldo Gianola. Buongiorno a voi. E Andrea Olivero, presidente delle ACRI e portavoce del forum del terzo settore. Buongiorno Olivero. Buongiorno. Allora, io comincerei da Gianola, perché l'Unità e il Manifesto sono tra quelli che hanno sempre fatto una battaglia a favore delle risorse per l'editoria, sottolineando che è facile ovviamente criticare chi ha accesso a queste risorse, però si tratta anche di risorse destinate a una parte dell'editoria scomoda e che forse è più conveniente a quel punto tagliarle anche per il nobile e giustificato motivo del terzo settore. Come la pensa Gianola sulla copertura dei finanziamento che è stata trovata ieri per il 5 per 1000? Ma diciamo subito che tutti siamo solidari col terzo settore e naturalmente non ci sono gare da fare tra poveri, tra chi può recuperare un po' di risorse per le proprie iniziative, le proprie attività, quindi benvenuti i fondi al terzo settore. Quello che mi appare un po' strano, devo dire la verità, è che diciamo questa manovrina di Tremonti di fine anno e 1000 proroghe assume un po' i contorni della farsa, perché dopo aver così non più tardi di 1.5-2 mesi fa raggiunto un accordo, accettato che ci fossero sotto sollecitazione sollecitazione, pressione da parte del mondo dell'editoria, della cultura, dello spettacolo, i fondi per coprire almeno in parte i finanziamenti per questo settore, questi fondi sono stati poi appunto iscritti, no, alla legge di stabilità, e quindi si pensava che anche per l'anno prossimo la situazione potesse in qualche modo trovare una sua coerenza, una sua congruità. Adesso col mille proroghe di fine anno, diciamo, questi fondi sono in larga parte scomparsi, vengono trasferiti a un altro settore importantissimo, lasciando però un altro buco, cioè si passa da un buco a un altro, tirando una coperta che mi rendo conto possa essere corta, e quindi noi cosa faremo adesso? Torneremo a protestare, i giornali, le cooperative, le radio locali torneranno a fare quello che hanno sempre fatto, cercando di recuperare quei fondi. Ma tengo però a sottolineare, quando tu dicevi che questa è una forma deleteria e in qualche modo negativa, no? di uno Stato che è di impronta statalista socialdemocratico, no, questo è uno Stato di impronta, direi, statalista berlusconiano, perché vedi, i giornali legati ai gruppi parlamentari o legati ai movimenti culturali per cui ricevono dei fondi, io penso che debbano essere tutelati così come c'è scritto nella Costituzione, ma potrebbero anche, direi, fare a meno di una larga parte di questi fondi se questo fosse un mercato editoriale, pubblicitario, direi anche giornalistico, completamente aperto, se fosse disciplinato in un altro modo, se fosse rispettoso di quelle, diciamo, regole liberali a cui tu prima ti riferivi. Qui invece, diciamo la verità, vige un po' la legge del più forte, insomma, no? Quindi ce n'è per uno e per qualcun altro, e poi per il resto, per gli altri, non c'è più niente. Ora, a sostegno di quello che stai dicendo, ma a sostegno, ricordo a chi ci ascolta oggi anche l'editoriale del Manifesto, firmato da Valentino Parrato, che dice su questo punto specifico che stiamo toccando e che Renato Gianola sta svolgendo, dice testualmente così. Anche per questo il Manifesto è diventato un obiettivo di questo governo, che prima ha abolito il diritto soggettivo a un contributo statale all'editoria libera e poi adesso minaccia di far bella figura togliendo i soldi destinati all'editoria per darli al 5 per 1000. E qui, anche in polemica con gli amici del Fatto, ribadiamo, dice Parlato sul Manifesto, che il contributo pubblico all'editoria senza padroni, come noi siamo, non è un'elemosina, ma un dovuto contributo alla cultura e alla libertà. Ove queste minacce diventassero realtà, sono diventate realtà ieri col mille proroghe, sappiano i nostri potenti nemici, ma anche i giovani del movimento, che non molleremo. Volevo solo aggiungere anche la voce di Parlato a quello che stavi dicendo. Bene. No, io sono di questo parere, capisci? Cioè, vogliamo togliere i fondi all'editoria, per carità, possiamo fare anche questa, prendere anche questo provvedimento. Però se ci sono le condizioni, perché, diciamo, i giornali, le radio, le strutture di spettacolo, le associazioni culturali abbiano la possibilità di reperire risorse in un altro modo, questa è la sostanza dei fatti. Dopodiché ti devo dire questo: i giornali, come in questi anni hanno ricevuto il finanziamento, hanno sempre fatto fatica a tirare avanti. Su questo è una condizione praticamente che sta nel DNA, no? Noi forse abbiamo le spalle un po' più coperte di altri, però insomma la situazione è sempre delicata. Continueremo a lavorare, possibilmente a lavorare bene se ci riusciamo, e direi anche che certe polemiche, come quelle di alcuni giornali, no, contro il finanziamento pubblico, i sostegni, gli aiuti e gli incentivi fiscali all'editoria, sono battaglie completamente di retroguardia, no? Perché sono proprio la sensazione di un decadimento culturale, di un livello bassissimo di polemica politica. Un conto è se vogliamo in qualche modo continuare a difendere dei principi costituzionali che sono riconosciuti, e quindi si può discutere, per carità. Io sono ad esempio del parere che questi fondi debbano essere ridotti e debbano essere erogati dietro un regolamento preciso, rigoroso, per evitare che i fondi vengano buttati via da dei giornali inesistenti. Questo nella sostanza sarebbe una politica giusta. Però capisci anche che alcuni su questo sono pronti a dire, appunto, sì, però come si fa a distinguere? La realtà è che molti, cioè adesso non voglio fare la cosa sgradevole, spiacevole, io ho lavorato per molte testate che avevano il contributo, ho sempre scritto per loro, dicevi tu, ipocrita, sì, però io ho sempre scritto che ero favorevole all'abolizione, in alcuni casi non sarebbero esistiti senza il contributo, certo se uno è convinto della battaglia, dice il pluralismo della Costituzione non può che spingere alla sopravvivenza di questi contributi di pensiero, è chiaro che chi i contributi non li prende dice, beh, voi senza i soldi del sistema pubblico non esistereste, però ovviamente è molto difficile fare di una regola o un principio generale poi la regola che si cala a giornali diversi, cioè l'Unità non è esattamente il campanile, ecco, testata per così dire di una, e quindi mi rendo conto che è molto facile prendere applausi nel chiederlo e talvolta a sostenerlo in maniera più tagliente e chi poi ovviamente vende più copie degli altri, questo riguarda da filtri da una parte, che però poi li prendeva pure lui, al fatto dall'altro, resta che poi la rappresentatività e il pluralismo è un punto delicato. Io per questioni di ordine generale sono sempre stato contrario, però detto questo vediamo come invece vede la copertura e la soluzione per il problema del 5 per 1000 Andrea Olivero, quindi il portavoce del forum del terzo settore. Soddisfatti e rimborsati, come si suol dire, oppure soddisfatti e preoccupati o non soddisfatti per niente? Olivero, che dice? Ma siamo parzialmente soddisfatti, nel senso che da un lato certamente abbiamo apprezzato il fatto che una parte di risorse siano arrivate e che ci consentano comunque di guardare con un po' più di tranquillità all'anno che si avvia. Abbiamo però due generi di preoccupazione. La prima è che in realtà questi fondi ad oggi non sembrano coprire l'intera necessità per quanto riguarda il provvedimento di sussidiarietà fiscale, nel senso che il fatto che ci siano 100 milioni connessi ad un unico ambito, quello dello SLA, della SLA, ci lascia un po' perplessi, perché appunto non è più sussidiarietà fiscale, ecco, è davvero dono che il governo semplicemente ha fatto. C'era bisogno di 400 milioni per poter consentire a tutti i cittadini italiani che lo vogliono fare di poter andare a dare le risorse del loro 5 per 1000 alle organizzazioni scelte. In secondo luogo siamo preoccupati perché tutti gli anni questa situazione si sta ripetendo e in realtà sentirci dire che il 5 per 1000 è il regalo di Natale, insomma, ci turba un poco, sia perché le cose che noi facciamo crediamo abbiano una valenza pubblica piuttosto marcata e quindi non abbiamo bisogno di regali, lo dico con forza, ma abbiamo bisogno che vengano riconosciuti quelli che sono nostri diritti e quelli che sono elementi di convenienza, di utilità sociale molto forte. Dall'altro lato anche perché la preoccupazione sta nel fatto che di anno in anno le risorse nell'ambito delle politiche sociali si riducono e noi rischiamo di trovarci a dover utilizzare gran parte di queste risorse più che su progetti innovativi per coprire buchi che si stanno allargando all'interno dei servizi pubblici. Questo chiaramente non ci lascia tranquilli, non è questo un buon modo di fare sussidiarietà. Noi non ci sottraiamo alla nostra responsabilità, anche nella nostra responsabilità pubblica, pur essendo soggetti privati, però è chiaro che lo vogliamo fare in una logica, in una prospettiva che sia quella di andare a costruire appunto un diverso rapporto tra i soggetti, una diversa partecipazione dei cittadini, non andare a farlo in maniera semplicemente residuale, ecco, via via che arretra lo Stato noi andiamo a muoverci. Noi crediamo che ci voglia meno Stato in Italia, ma questo non deve avvenire su una prospettiva di uno Stato peggiore, deve avvenire in una condizione di uno Stato migliore che sa fare fino in fondo la sua parte e che lascia spazio ai soggetti che possono invece andare ad esercitare il loro compito in maniera più propria. Io sono molto d'accordo con uno dei punti toccati da Olivero, in cui dice questo meccanismo di fare sospirare fino alle ore 23:58 del 31 dicembre per farci capire se veniamo coperti almeno in una parte ancora del nostro bilancio, con un bilancio che poi con una copertura finanziaria che diventa sempre più stretta di anno in anno, in realtà è come dire, sì certo Giulio Tremonti dice sempre il 5 per 1000 è una sua idea eccetera eccetera, Però di fondo questo stesso meccanismo significa levare l'acqua in cui il terzo settore inevitabilmente può meglio nuotare, quindi è una maniera per dire in realtà lo Stato vi fa la guerra. Allora Luigi Micone, per chi come lei è a favore della sussidiarietà, contemporaneamente insomma non è che dica la risposta migliore viene dall'opposizione piuttosto che dal governo, come si fa quando sono quelli che l'hanno inventato 5 per 1000 in realtà a proporre poi soluzioni che non soddisfano in primis chi è per la sussidiarietà come lei? Si criticano perché naturalmente, come mi pare segnalava Olivero, non si tratta di difendere un partito, personalismi, una posizione ideologica, clientele, si tratta di difendere un'espressione di società vivente e che cammina, lo ha detto lei benissimo iniziando la trasmissione, sulle persone concrete e sulla loro capacità, creatività, libertà di fare qualcosa per se stessi e per gli altri, evidentemente che viene prima da qualsiasi come dire, progetto di uguaglianza eccetera, che è concepito centralmente, statalisticamente. Faccio un inciso perché mi ha colpito Gianola e lo invito a riflettere anche su questo. Io dirigo un giornale che c'è da 15 anni, è nato una piccola bottega e non ha mai avuto accesso, se non da quest'anno paradossalmente, che siamo diventati cooperativa, per la prima volta quest'anno dovremmo prendere dei sussidi, ma per 15 anni abbiamo costruito una piccola impresa, oggi c'ha tanti ragazzi, giovani, abbiamo fatto moltissimi praticanti e in proporzione forse molto più del Corriere della Sera. E quindi non è questo per noi il fatto, dico, a partire dall'esperienza, l'ideale non è avere i sussidi, perché è proprio dell'impresa culturale viva, reale, eccetera, che se è viva, reale, culturale, sociale, deve, si muove da sé perché ha una vitalità, gli scorre il sangue, non vive di assistenza. E infatti noi abbiamo programmato per i prossimi 3 anni di produrre dei budget che alla fine dei 3 anni ci liberano dai sussidi, comunque sia, comunque succede questa legge. Ammetto però che possa esistere, io al contrario suo non sono in principio contro i sussidi per la, però riflettiamo. I giornali dei partiti, ma riflettiamo Gianola, in questi anni la politica, voi giornali di partito l'avete difesa, avete difeso i processi decisionali, avete difeso la primazia, il diritto di primazia della politica come soggetto mediatore di interessi, di cultura, di costruzione di un ideale, o avete difeso uno Stato giudiziario, uno Stato che si è fatto e quindi ha distrutto di fatto la politica, la cultura, in nome di una, come dire, di un potere giudiziario totalmente svincolato dai processi decisionali, rappresentanza popolare. E punto, non dico altro che questo è il grande tema, secondo me, che si riflette anche sul discorso perché un giornale ha diritto, anche un giornale di partito, ma se c'è la politica, se c'è ancora la politica, se noi stessi collaboriamo a un'idea di società in cui tutto è uguale, che tutte le leggi, non deve esistere la politica, non deve esistere finanziamento a ciò che è ritenuto in qualche modo oscuro, corruttibile, perché la politica è qualcosa di corrotto, di male in sé, è finita, noi siamo, i giornali spariranno, ci saranno soltanto i mattinali di polizia e la politica si riderà e i giornali si riderà sempre di più al fatto di ansiosamente rincorrere regole che saranno dettate nei tribunali, pazzesco, lo Stato giudiziario. Dio non voglia. E io anche devo dire che un po' sono d'accordo con quello che dice Luigi Micone, difendendo il diritto che naturalmente poi ci sono i giornali che dicono no, noi difendiamo comunque la primazia della politica, non ci piace questa politica, questo è inevitabile che sia così, come è così tra unità, tempi e così via. Ripeto, quello che importa dire a me è che un meccanismo di finanziamento di tutto il volontariato, del terzo settore, di ciò che dimostra sotto i nostri occhi che non è vero che gli italiani sono un popolo di anomici, asociali, che passano il loro tempo a mettersela nel fondo schiena. Non è così, perché 6 milioni di italiani, con la loro capacità di donare e impegnarsi al di là del ritorno monetario, ma facendo capitale sociale, creando fiducia, che è il presupposto di ogni civiltà organizzata e di ogni mercato che funzioni, sono prima e meglio dello Stato, prima e meglio dello Stato. E lo Stato che tratta così la parte più alta della espressività di capitale sociale degli italiani dimostra di non capire assolutamente niente del presupposto che quella fiducia crea poi all'efficienza anche del settore pubblico. Questa resta la mia opinione, e come sempre il fatto di essere amico personale di stima di Giulio Tremonti non mi impedisce di battermi con grande durezza per dire che questi sono errori di fondo, di prospettiva, perché fanno arrivare alla parte del paese che si impegna gratis l'idea che il loro impegno viene considerato niente, viene considerato trascurabile. Invece quell'impegno è il presupposto stesso che dà l'idea, che origina l'idea, che fonda, che radica e giustifica ogni idea di Stato. Lo Stato viene dopo ed esisterà e sarà efficiente solo se più milioni di italiani faranno ogni giorno e ogni notte quello che fanno quei milioni di italiani, ai quali io dico grazie, sperando che un giorno i politici la capiscano così, perché a pensarla così siamo noi del volontariato, che poi si possono dividere politicamente, io sono liberista, ci sono socialdemocratici, comunisti, c'è di tutto, ma questa è la cosa che ci unisce, e secondo me questa è una grande speranza che vive nella realtà del nostro paese, a differenza di quella della politica, che non vivono nella realtà della politica italiana. Ora pubblicità, grazie ai nostri ospiti, e poi la seconda parte della trasmissione, Sarabanda natalizia con tutti voi che siete in lista con le telefonate, sfogatevi! Eccoci tornati in studio con le vostre telefonate. Io ripeto, oggi prendiamo telefonate su tutto, perché la formula della trasmissione oggi è cambiata, quindi potete chiamarci dall'università alle dimissioni della Prestigiacomo, all'intervista di Piero Sterino se l'avete letta al giornale, chiaramente un giornale che senza filtri deve un pochino interrogarsi, e oggi dà una paginata intera a Piero Sterino che dice ecco cosa manca questo centrodestra, e manca l'attenzione alla parte dei cittadini, insomma, che non si ritrovano in questa cosa muscolare da una parte e dall'altra contrapposta. Oppure di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare insomma, fate voi con la più ampia libertà di dire a ruota libera come la pensate. Cominciamo con Fabrizio da Milano. Prego Fabrizio, su che cosa? Buongiorno. In primo luogo telefono per questo, per il canone RAI. Sì. Ho sentito che c'è un aumento da quest'anno che viene. Sì. La classica ciliegina, no? Avevano detto, quando c'era il passaggio dall'analogico al digitale, che non ci sarebbe stato aumento, e come sempre appunto le promesse vengono mantenute. Un referendum, se ricordo bene, un referendum sul passaggio dal pubblico al privato, mi sembra il 54%, e hanno detto che il privato era meglio. È uno dei tanti referendum il cui esito non è stato poi accolto, è stato raggirato dalla politica. Ecco, uno di questi tanti referendum sono stati persi praticamente. Volevo capire, ma ci trattano così a pedate su in quel posto là, oppure oppure vede un'alternativa? No, perché se la vede me la dica. No, io penso che, guarda, innanzitutto ricordo, il canone RAI è una tassa di possesso per qualunque tipo di schermo, se mi chiede un'opinione è intollerabile, ingiustificabile. Naturalmente passo per un anomico sostenitore del sistema privato, però una tassa di possesso sugli schermi dal mio punto di vista è intollerabile. Poi, per quello che mi riguarda, il servizio pubblico si può fare con standard che ispirano un bando pubblico, il bando pubblico vede dei privati che partecipano, chi si impegna al rispetto di quegli standard di qualità di programmazione e produzione di trasmissioni fa servizio pubblico. Mi dispiace, io al baraccone pubblico non ci credo per definizione. Beppe da Milano, sentiamo Beppe su che cosa interviene invece. Ma sull'ultimo argomento che avete trattato, sono un volontario e alla luce di questo provvedimento mille proroghe ritengo sia giusta questa modifica, pur facendo delle valutazioni. Innanzitutto la prima è che chi fa volontariato è legato innanzitutto al problema del suo cuore, e in secondo luogo nessuno si butta in volontariato pensando di usufruire del 5 per 1000 il giorno che ha deciso di farlo. Ci mancherebbe, certo. ritengo sia una cosa non giusta, giustissima, il fatto di togliere i soldi all'editoria di partito, anche perché i partiti usufruiscono già di un rimborso che mi pare che non sia pari allo zero ma sia cospicuo. Per cui voglio dire, se il Secolo d'Italia si deve pagare i funzionari di partito, cosa che ha sempre fatto, poi dopo mano a mano fanno carriera, li fanno diventare parlamentari o roba varia, o il Manifesto altrettanti i propri militanti, i propri dirigenti, è inutile che utilizzino la struttura del giornale piuttosto che la struttura dell'editoria, ed è assurdo che i cittadini paghino questi costi, visto che pagano già il rimborso elettorale dei partiti. Va bene, e naturalmente i partiti tendono a quel punto a tenerseli per sé, i rimborsi elettorali dei partiti, non dai ai giornali. Comunque è una lunga e diuturna polemica questa. Sentiamo come la pensa Riccardo da Bologna invece. Buongiorno, sono Riccardo da Bologna. L'argomento appunto è sovvenzioni giornali, editoria e lo spettacolo. Io credo che appunto vadano tagliati i fondi e oltretutto la politica dovrebbe essere una passione, no? Se uno crede in un progetto, ci crede e lo fa a prescindere, come diceva l'ascoltatore di prima. Oltretutto non vedo perché il caro, che ne so, Carlo Verdone fa lo stesso film da 10 anni. È un suo diritto, lo fa, lui fa quello che crede, però non si lamenti se la gente non va al cinema. Saviano ha fatto un progetto che lui credeva interessante, andava avanti anche, indipendentemente da come io la penso, anche andava avanti senza qualsiasi sovvenzione, un progetto interessante, un messaggio, il mercato l'ha premiato. Ma perché io devo pagare cantanti ignobili, giornalisti che fanno errori grammaticali di sintassi, che scrivono cose inutili per fare soltanto tirar fuori uno stipendietto? Non credo che interessi a molti. Io faccio a modo mio il volontario, sono un insegnante di judo con dei bambini di varie etnie, passo ore e ore e ore una palestra freddo in un paesino credendo in una cosa e ci rimetti i miei soldi, lo credo, lo faccio e basta. Ma credo che dobbiamo ridimensionare appunto il concetto della politica che va a spese di tutti e del mestiere della politica. Io sono molto d'accordo con lei. Le dirò per esempio che oggi, oltre all'approvazione della Gelmini, della riforma Gelmini dell'università, io considero l'evento fondamentale della giornata quello che inizia tra un'ora e un quarto ed è avviene a Torino l'incontro a Mirafiori tra l'azienda e i sindacati. Si va con un'idea che è rivoluzionaria, con l'idea di fare un'intesa che passa anche solo con il 51% nel referendum tra tutti i dipendenti del Mirafiori, le deroghe al quadro completo di intese di un contratto nazionale e anche le deroghe al contratto dei metalmeccanici non sottoscritte già dalla FIOM. FIM e WILM, quindi CISL, WIL e FILM ci sono già detti d'accordo, altri no, perché la FIOM non accetterà mai un'impostazione di questo tipo. Faccio l'esempio di una cosa che non viene dalla politica, perché la politica ha enormi dubbi su questo e non solo la sinistra. Viene dal basso. Io penso che dal basso talvolta, quando ci sono stratificazioni decennali accumulate, dal basso si può a maggioranza e con un'enorme attenzione, perché significa che bisogna rispettare chi non la pensa in quel modo, soprattutto se rappresenta pezzi di storia come la FIOM, la CGIL, importanti, però dal basso a maggioranza si possono cambiare le cose, molto più che con la politica, il sistema pubblico, eccetera, eccetera. Alle 11 incontro a Torino per Fiat Mirafiori. Vedremo come andrà a finire. Ora la informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo con le vostre telefonate un po' su tutto, non solo sul tema del giorno. Ed eccoci tornati in studio, sentiamo Tiziana da Milano. Su quale argomento, Tiziana? Buongiorno, io vorrei parlare della proposta di Amato di risolvere il problema del debito pubblico facendo pagare circa 30.000 euro a testa ai cittadini italiani per abbassarlo a una soglia accettabile. No, momento, la soglia del debito pubblico pro capite è di 30.000 euro. Lui dice cosa ci sarebbe di scandaloso se da questi 30.000 euro noi obbligassimo gli italiani a darne 10.000, chi più ne dà di più, chi è, ma in media 10.000, e quindi si abbatterebbe di un terzo il debito pubblico, non saremmo più la pecora nera. Lei come la pensa, Tiziano? trovo che questa sia una proposta indecorosa, perché in un paese in cui c'è una evasione fiscale che fa paura, dove c'è una massa di ultra garantiti che cumulano decine di incarichi, e il presidente Amato è un esempio illuminante di queste condizioni, eccetera, dove le regioni, tipo la regione Sicilia, ha dato, citato recentissimamente, assumono, stabilizzano personale in misure allucinanti, pagano gli studi universitari. Quindi degli prima sprechi. Facessero quello, le pare? Prima facessero quello, perché io e mio marito paghiamo una quantità in vereconda di tasse. Molto d'accordo con lei, molto d'accordo con lei. E come diceva giustamente Tremonti, in un paese in cui ogni anno si vendono non so quante decine di migliaia di macchine che superano i 70-80 mila euro, forse bisognerebbe fare, ma non faccio un discorso di tipo né ideologico né assolutamente, faccio semplicemente un discorso di non so, legittimità, legalità, non so come definirla, sono incavolatissima. Brava Tiziana, proposta. Brava Tiziana, anch'io sono contrario, anche perché io non mi fiderei mai, una volta che sta all' 70-80% debito pubblico grazie al fatto che mi hanno sottratto un pacchetto di decine di migliaia di euro, obbligandomi a farlo, ricomincerebbero come prima. Io non mi fido, infatti voglio i tetti in Costituzione, delle tasse, della spesa pubblica e abbattere le aliquote, solo così spenderanno di meno, altrimenti, perdonatemi, destra o sinistra in questo paese ci ha fatto vedere che non riescono a farlo, e siccome non riescono a farlo, per di più se in nome della nobiltà dell'abbattimento del debito pubblico ci pigliano un altro pezzo di patrimonio, io sono contrario, io penso che legittimamente, nel rispetto di tutti, senza rompere le vetrine né incendiare nessun tipo di cosa, però insomma a quel punto bisogna che ci mettiamo in piedi muti di fronte all'Agenzia delle Entrate, non facciamo più entrare o uscire nessuno, ci facciamo rimuovere dai cellulari della Guardia di Finanza. Questa sarebbe la mia forma di protesta, disposto ad andare in carcere per questo, in carcere, perché si va in carcere di fronte a uno Stato ladro, bisogna essere capaci di andare in carcere gandianamente. Mimmo da Bari, come la pensa Mimmo? Sì, buongiorno. Senta, io sono un profano, però vorrei un suo parere tecnico su, come dire, una provocazione, nel senso che visto che il problema riconosciuto da tutti è quello dell'evasione fiscale, perché progressivamente non si sposta il prelievo fiscale dai redditi di lavoro o di impresa su patrimoni, consumi e rendite finanziarie? Perché anche l'evasore compra l'auto o acquista un immobile, fa delle spese. Chi è il sogno? Guardi, poi, io, siccome io sono di quelli che dicono che bisogna abbassare il prelievo su lavoro e impresa, quindi su questo siamo oramai tutti d'accordo. Su come si fa poi, innanzitutto io sono dell'idea che bisogna abbattere la spesa di molti punti, questo ci dimenticano tutti di dirlo. Io sono per abbattere la spesa, tanto per cominciare, e per abbattere il prelievo con l'abbattimento di spesa. Poi, domanda, in un paese in cui c'è l'anagrafe dei redditi che sappiamo, secondo lei l'anagrafe dei patrimoni in che cosa si riserva? Si riserva soprattutto, si risolve soprattutto nella liquidità che le famiglie a reddito più basso tengono molto più elevata sul totale del loro attivo e nel mattone. Il mattone, lo ricordo a tutti, va risparmiato perché sarà il pilastro della finanza autonoma dei comuni. Allora, da questo punto di vista io non credo molto al fatto che l'anagrafe patrimoniale degli italiani sia molto diversa dall'anagrafe dei redditi. Scoprireste che il più dei grandi patrimoni non c'è, è invisibile. Quello che è visibile è il mattone e il conto in banca, perché ripeto, non c'è nominatività dei titoli azionari nel nostro paese. Quindi scopriremmo a quel punto, di fronte al prelievo patrimoniale, cioè a tassare il passato, e sono d'accordo su questo, invece che il reddito l'oggi, che va preservato per i consumi e gli investimenti domani, scopriremmo che l'anagrafe dei patrimoni ha gli stessi difetti dell'anagrafe dei redditi. Sapete perché? Perché si autodifende da uno Stato ladro che, siccome ha tassato troppo a chiacchiere i redditi, il patrimonio chi ce l'ha elevato? Che cosa ha fatto abitualmente nel nostro passato? L'ha reso visibile o la tiene fuori? Lo tiene fuori, e quindi saremo di nuovo a capo a 12. Quindi bisogna che lo Stato riacquisti credibilità, più o meno molta meno spesa e abbattimento delle aliquote marginali di convergenza, 20%, 25% uguali sul reddito persone fisiche, reddito persone giuridiche, abbattendo la regressività che oggi fa premia le grandi imprese e le banche, e fa pagare invece 40 punti in più al 99%. 99% delle imprese italiane. Oscar Giannino farebbe questo e però vi direbbe: o lo fa in 5 anni oppure siete liberi di prenderlo a calci nel sedere su tutte le strade italiane fino a che non c'ha più un brandello di pelle appeso ai glutei, perché questa è la garanzia da dare, perché altrimenti c'è di nuovo una scusa per cui dopo 5 anni vi dico no, c'è stata la grande crisi, non l'ho fatto. Se non l'hai fatto, non resta un brano di pelle attaccato al tuo osso sacro. Claudio da Torino, come la pensa? Su chi vuole intervenire? Buongiorno Giannino, io volevo intervenire sulle false dimissioni di Prestigiacomo. Ah, lei non ci crede? Lei non ci crede che le ha dato? No, io volevo fare un altro tipo di discorso. Il discorso è questo: si parla tanto che le donne sono bistrattate, che non vengono messe in evidenza nella politica, che non occupano i posti di rilievo. Sì. È noto che quando sono nei posti di rilievo, perché sono, mi riferisco sia alla Carfagna che a Prestigiacomo, sono in posti di rilievi dove potrebbero far valere le loro capacità, al minimo impedimento chi si mette a piangere perdendo anche di dignità, secondo me, e chi dice io mi dimetto, me ne vado, poi dopo 2 minuti va tutto bene, rientra di nuovo. Cioè, ma non è questo il modo di fare politica da parte delle donne. Vabbè, Claudio, però io un po' difendo anche l'emotività, il fatto, insomma, la Prestigiacomo dall'inizio ha forti conflitti anche perché si è tenuto gente al ministero che al suo partito, e non solo al suo partito ma anche a chi un'impostazione più di mercato non piaceva, perché poi non nasconde il fatto che di fronte a molti signor sì in consiglio dei ministri fuori lei ha iniziato a dire come la pensa diversamente, ha questionato spesso con Tremonti e Berlusconi, la trattavano paternalisticamente e come fanno spesso, dicendo ragazza, a volte capita anche con donne di grande rilievo fuori dalla politica che lo facciano, dicendo ragazza, cioè io penso che la Prestigiacomo un po' vada capita. Dopodiché io penso che non puoi dire che esci da un partito e poi non si capisce se ci sei uscita, perché se sei ministro e politico, dire esco dal partito in momenti di delicatezza politica come questa implicano coerenza assoluta, altrimenti devi stare zitto. Ma non sono le lacrime a colpire, io difendo il diritto alle lacrime di tutti, penso che versare lacrime sia una maniera per essere umani, naturalmente al momento giusto, ecco, per così dire. Cristiano dalla provincia di Milano, su cosa interviene? Buongiorno dottor Giannino, volevo complimentarmi per la trasmissione, ma non in modo scontato come si può fare in ogni trasmissione, ma perché spesso e volentieri mi apre gli occhi su informazioni che i nostri telegiornali per ovvi motivi di scomodità. Aia, bando ai complimenti, no, niente complimenti, che cosa voleva dire invece? Guardi, l'assurdità della proposta Amato, io ho 41 anni, ho fatto manager di banca per una grossa banca americana per 10 anni, la banca americana ha deciso di uscire dal mercato europeo, mi sono trovato senza lavoro. In tutto questo mi si propone anche per sanare un debito pubblico di versare, come sentivo prima, una cifra indicativa di 10.000 euro a fronte di che cosa? Di servizi sociali che non funzionano, non c'è la certezza bravo, di nulla, fiducia totale bravo, di come bravo, questi bravo. Soldi verrebbero impiegati. Esatto. Ho sempre pagato le mie tasse, perché se anche ad alti livelli ho sempre fatto solo ed esclusivamente il dipendente. Di conseguenza mi domando e dico, ma con quale faccia e con ci vengono a proporre certe cose? Va bene, non diciamo con quale faccia, Cristiano, io la penso così, però Giuliano Amato ha pieno diritto a dire sì, però insomma usciremmo dal premio a rischio più elevato, quello debito pubblico che sarebbe al di sotto della media dei paesi OX. Io non penso che il prelievo forzoso sia la maniera però per ottenere questo, anche perché penso che dovrebbe essere giustificato un prelievo forzoso molto più proporzionale per i politici che portano responsabilità di questo, e quindi vorrei vedere la politica compartecipare, non solo i contribuenti. Giovanni da Monza, su cosa interviene? Sì, salve, preciso, sono un autonomo, sì. E volevo ripartire o precisare quello che ha detto un signore 2 o 3 telefonate fa, adesso non ricordo quante. Dica. Quando diceva bisognerebbe colpire gli evasori, bisogna vedere quanto spendono, ma forse il signore non sa che dal 1 gennaio parte lo spesometro. Ah, a proposito, col mille proroghe abbiamo appreso la soglia precisa alla quale si applica, quindi tutti voi che siete in ascolto, la soglia è di 3.600 euro per ogni acquisto privato, anche solo se avete il codice fiscale di 3.600 euro, ricordate che dovrete quantomeno segnalare il codice fiscale all'acquisto e poi scopriremo come fare la comunicazione, ma ogni acquisto privato di 3.600 euro andrà comunicato all'Agenzia delle Entrate ed entrerà a far parte della batteria degli indicatori del redditometro. Diceva Giovanni, noi commercianti infatti saremo obbligati, pena mega sanzioni, a tra virgolette, quello che mi sono letto sentendo ragionieri, vedete un po' su internet, sui siti vari delle finanze, saremo noi commercianti a dover tra virgolette esatto. Denunciare il privato che ha speso 3.600 euro, esatto. Fino a sanzioni. Esatto. stato molto controllore, tra virgolette, fa i controlli con degli algoritmi, dicevano, che capiscono, sì, hai speso 7.000 euro per un orologio di marca, appunto, te lo permetti? No, allora ti faccio l'accertamento preciso. Ma non sarà, è più che così, perché la realtà è che lo Stato si riserverà di farti l'accertamento obbligatorio se penserà che hai speso anche solo un 20% in più di quello che lui ritiene sia giusto. Questo è il punto, ed è un criterio che a me sembra un criterio bandedesco. Mi direte voi, se non fa così lo Stato non combatte l'evasione? No, non è vero. Lo Stato combatte l'evasione se spende meno e abbatte le aliquote. Dopodiché, quando avrò il 26% di pressione federale fiscale americana, sono disponibile alle manette agli evasori. Tutti quelli che in Italia mi dicono come? In America si va in galera, e dimenticano però che c'è una pressione fiscale di 20 punti inferiore, e a me stanno un po' antipatici. Vogliono dell'America solo l'aspetto manettaro. Io voglio prima la libertà e poi le manette. Abbiamo concluso una trasmissione un po' singolare, non abbiamo avuto con noi il ministro Gelmini, e dal 5 per 1000 siamo arrivati a pensare, come al solito, come la pensate su donne, politica e... tasse. Ora non mi resta che darvi appuntamento a domani, linea al giornale radio, grazie a tutti voi.